il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Al quadrifoglio oggi abbiamo il piacere di avere con noi il presidente di Coldiretti Veneto, Martino Cerantola. Il motivo per cui l'abbiamo chiamato è duplice, perché la settimana scorsa è stato dato il via libera all'indicazione di origine obbligatoria per il latte e per i prodotti lattiero-caseari in Italia. Tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia addirittura risultano essere stranieri, e così sono stranieri anche il latte di molti formaggi. Ora, la provenienza del latte sarà riportabile in etichetta e i consumatori potranno scegliere con maggiore consapevolezza. Il secondo motivo è che Veneto Agricoltura ha diffuso la scorsa settimana i primi risultati della produzione agricola veneta del 2016 e vorremmo quindi sentire anche le valutazioni di Coldiretti. Ma andiamo per ordine, la questione latte. Che cosa vi aspettate che cambi adesso? Ma innanzitutto che sia fatto chiarezza nei confronti del consumatore, che sappia effettivamente che il latte che sta bevendo, quel formaggio che sta mangiando, è fatto effettivamente con latte italiano. Questa è una cosa molto importante nei confronti del consumatore, e sicuramente ci aspettiamo che ci sia una richiesta maggiore del prodotto italiano e di conseguenza un valore un po' più alto nel nostro prodotto. Quindi voi pensate che questo possa anche portare ad un maggior riconoscimento economico rispetto al valore del latte? Ci auguriamo sinceramente di sì, soprattutto in questo periodo dove il prezzo del latte è basso e di conseguenza non riusciamo a fare economia all'interno delle proprie aziende, perché noi 15 anni che come Coldiretti ci battiamo per avere l'etichettatura e finalmente, a distanza di 15 anni, siamo riusciti ad avere questo riconoscimento. È un momento veramente importante. Ecco, voglio ricordare che lei, oltre ad essere presidente di Coldiretti, Vicenza e anche del Veneto, è anche titolare di un'azienda agricola che è appunto allevatore produttore di latte tuttora. Ecco, quali sono però i problemi principali che rendono basso il costo del latte? È esclusivamente la concorrenza estera o vi sono altri problemi magari strutturali? Ah, guardi, effettivamente da un lato c'è la provenienza estera che ha comunque un costo minore di produzione per una realtà completamente diversa. È anche vero che dobbiamo fare una strategia unitaria noi in Italia, le dico soprattutto in Veneto, dove la maggior parte del latte viene lavorato dal mondo cooperativistico, e di conseguenza deve essere una coesione per la promozione del prodotto soprattutto all'estero, perché non dimentichiamoci che il nostro prodotto di alta qualità con i DOP che abbiamo è molto richiesto all'estero, di conseguenza dobbiamo proporlo anche all'estero per trovare riscontro economico. Stiamo parlando di formaggi, quindi in questo caso stiamo parlando esclusivamente di formaggi. Ecco, ma anche questi beneficiano di questa nuova legislazione? Cioè sarà possibile sapere nel concreto che il formaggio è stato fatto con latte italiano? Che il formaggio sia stato fatto effettivamente con latte italiano, e questo è quello che ci attendiamo, che ci sia una risposta positiva su questo. Mentre se uno acquista già oggi prodotti DOP, IGP, eccetera, già a parte che è garantito. Se parliamo di prodotto DOP è già garantito perché un DOP al disciplinare, il latte deve arrivare da un'area ben precisa, gli animali devono essere alimentati con un'alimentazione seguita ad hoc, di conseguenza mentre tutti gli altri non avendo l'obbligo di etichettatura da dove arriva il latte, può essere fatto sicuramente con latte anche estero, paesi europei o extraeuropei. Senta, nel concreto cosa troveremo? Quindi dei cartoni di latte dove c'è una scritta latte italiano? Latte italiano è prodotto in Italia, molto in Italia. Quindi voi con i vostri produttori, e con le aziende che commercializzano il latte cercherete di promuovere il fatto che ci sia un'etichettatura il più possibile completa a questo punto? Assolutamente sì, completa e chiara, perché dobbiamo mettere nelle condizioni il consumatore di sapere o di riuscire a leggere velocemente quello che c'è scritto in etichetta. Più grande possibile, con la chiarezza più semplice, dove si evince che effettivamente il latte è veramente italiano, è munto in Italia. Senta, una curiosità, i distributori di latte fresco, di cui qualche anno fa se ne installavano, se ne avevano parecchi, adesso ne ho visti qualcuno chiuso e se ne parla anche molto poco. Stanno andando verso la sparizione oppure possono avere ancora un futuro? Possono avere ancora un futuro, fermo restando che le aziende, purtroppo con la diminuzione delle aziende che producono latte, si sono automaticamente ridotti, anche se abbiamo un prodotto leggermente diverso da quello che si trova generalmente in bottiglia, perché quello in bottiglia è pastorizzato e quello invece nei distributori latte crudo, e di conseguenza deve seguire un iter diverso da quello in bottiglia. Siccome tutti noi oggi abbiamo pochissimo tempo, e di conseguenza tendiamo ad andare ad acquistare quello in bottiglia. L'obiettivo nostro è quello che anche quello in bottiglia, se lo acquistiamo, sia chiaro che sia un prodotto italiano, oppure potrebbe essere anche un prodotto estero di un paese europeo, però deve essere scritto in etichetta. Per cui il consumatore decide lui se acquistare un prodotto italiano oppure no. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con il presidente di Coldiretti Veneto, Martino Cerantola. Abbiamo parlato un poco fa della legislazione che porta ad avere un'indicazione della provenienza del latte, quindi del latte italiano sui cartoni del latte, ma vorremmo anche adesso allargare il discorso alla produzione dell'anno scorso agricola. La settimana scorsa Veneto Agricoltura ha diffuso i primi dati, non ancora completi, dove si ha un bilancio un po' in chiaroscuro, e come al solito la parte del leone la fa il vino, ma ci sono anche degli altri settori un po' in crisi. Vuole darci un po' la sua valutazione? Sicuramente il settore del vino in questo momento è quello che traina moltissimo con l'export, di conseguenza c'è un ottimo risultato, e io amo dire è il settore che va meno peggio degli altri. E purtroppo ci sono settori, dal latte alla carne all'ortofrutta stessa, che comunque dimostrano chiari segnali di sofferenza. Abbiamo aziende che purtroppo chiudono perché non riescono più a essere competitivi con il prezzo. Questo ci fa riflettere e ci dice che dobbiamo fare sinergie da un lato e promozione specifica dall'altro. Di conseguenza tutti quei settori, dal latte che ne abbiamo parlato anche prima, comunque abbiamo raggiunto un buon obiettivo, adesso ci attendiamo che siano delle risposte economiche. Dall'ortofrutta, che deve essere sicuramente riorganizzato a livello regionale per dare anche a lei delle risposte, anche perché non ci dimentichiamo che sull'ortofrutta abbiamo delle province importanti in Veneto, vedi Verona, dove è la prima produttrice, tra l'altro la prima provincia in Italia come export del prodotto ortofrutticolo. Fermo restando che ci deve però essere anche un riscontro economico. Beh, assolutamente. Ecco, è necessario puntare sui prodotti di DOP e IGP, oppure anche il prodotto che non beneficia di questi marchi può avere un futuro, oppure la concorrenza straniera diventa troppo forte se non c'è questo? Ma allora, i prodotti DOC, DOP, IGP hanno già un disciplinare per cui garantiscono già la produzione, di conseguenza servono sicuramente da traino per tutti gli altri prodotti, che devono essere anche loro promozionati, etichettati e garantiti nello standard di qualità, e di conseguenza logico che non possiamo avere tutti i prodotti solamente DOP e IGP o certificati, ci deve essere una politica a sostegno anche di questi prodotti. La concorrenza straniera viene da dove? Dai paesi europei o anche dai paesi extraeuropei? Perché se penso anche a verdure o da altri, penso a prodotti vicini, mentre magari per cereali o d'altro forse anche da più lontano. Ma arrivano sia da paesi europei che da paesi extraeuropei, di conseguenza arrivano un po' da tutto il mondo. Basta pensare che oggi ci vuole gran poco tempo per arrivare e far circolare le merci. Quello che è opportuno è che sia chiaro che la produzione italiana è sicuramente di qualità superiore, garantita con tutti i vari sistemi, perché non dimentichiamoci tutti i controlli che vengono fatti, vorrei dire, giornalmente nelle aziende, per cui anche se un prodotto non è dopo IGP, comunque è un prodotto garantito per il consumatore, per cui su questo l'Italia insegna che effettivamente abbiamo, dai controlli alle produzioni, prodotti di altissima qualità. La ringrazio. Grazie a lei. Andiamo a chiudere la trasmissione con le consuete notizie. Torino, Frosinone, Milano, Venezia, Vicenza, Padova e Treviso sono le città in cima alla classifica per il numero di superamenti del limite di 35 giorni all'anno, con concentrazioni superiori ai limiti di legge per il particolato, con i limiti previsti nella normativa italiana. Lo dice Legambiente, che ha presentato il rapporto PM10 Ti tengo d'occhio. E la classifica elaborata sui dati d'ARPA vede i capoluoghi di provincia veneti ai primi posti. Meteo e mancanza di misure adeguate sono combinazioni fatali e, secondo Lega Ambiente, serve un piano nazionale che aiuti i sindaci a sostenere misure strutturali e permanenti, perché queste sono spesso al di fuori della portata dei bilanci dei cittadini. Un esempio, la riqualificazione degli edifici pubblici per ridurne il consumo energetico, ma anche l'acquisto di autobus elettrici o l'incentivazione dell'uso della bicicletta. E concludiamo con un appuntamento, si chiama L'Arte a Tavola, l'iniziativa organizzata dall'Università del Gusto e dalla Biblioteca Internazionale La Vigna, che prevede due conferenze aperte a tutti previa iscrizione, nelle quali si seguirà il percorso dell'alimentazione dal lavoro dei campi alla mensa attraverso straordinarie immagini frutto di un'attenta ricerca iconografica sul tema. Gli incontri avranno come guida d'eccezione lo storico dell'arte Fernando Rigon Forte, una delle voci più autorevoli e aggiornate nel panorama italiano dell'iconografia. Il primo incontro è previsto venerdì 27 gennaio nella sede dell'Università del Gusto, in via Piazzon 40 a Creazzo, alle ore 17.30. Serve, come dicevamo prima, prenotare. Il secondo incontro è previsto invece per il 28 di aprile. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.